Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Fra un po' giochiamo a bowling. Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti a questa puntata di Mebius. Ascoltiamo insieme i titoli. Nuove tecnologie e sport. Il caso del bowling evidenzia uno scenario di ingestibile prevedibilità. Con le bocce e gli attuali parquet si fa sempre strike. Alla Shell Marathon si fanno migliaia di chilometri con un litro di benzina. Tra i partecipanti anche il Politecnico di Milano. Fra sciacquoni di casa e impianti di depurazione metropolitani, qui si gioca una partita importante per le risorse idriche. Ulteriori aggiornamenti sui sistemi extrasolari. Questa settimana è stata trovata CO2 su un pianeta a 63 anni luce da noi. Se ci fosse ossigeno libero, potrebbe ospitare la vita. Il marchio di qualità del cibo italiano e il moderno Tecnocibo. Sono due realtà divergenti? Ci sono buone ragioni che suggeriscono una risposta affermativa. Cittadina di Tuskegee, Alabama, 1932. Una brutta pagina di storia della scienza. 60 anni dopo, Bill Clinton chiese scusa alle vittime della tragica sperimentazione medica. Le nuove, potenti soluzioni tecnologiche vanno bene in molte situazioni. Energie più pulite, per esempio, spesso ve ne parliamo qui a Mebius, ma non in tante altre di situazioni. Nello sport abbiamo la sensazione che si profili un orizzonte pericoloso. Per dire di che si tratta iniziamo dal bowling, che è una pratica sportiva da noi certamente poco diffusa, ma in altri paesi largamente praticata. Ed è uno sport a tutto tondo, bisogna avere un buon allenamento fisico se si vogliono risultati di altro profilo, molta tecnica, coordinamento psicofisico altrettanto efficiente. Solo che il bowling è legato a due essenziali oggetti, la boccia e il parquet su cui questa viene lanciata. Sia l'una che l'altro hanno subito varie evoluzioni negli anni dal punto di vista dei materiali utilizzati. La boccia, per esempio, è un oggetto sferico che entra in contatto con una superficie liscia, con rotazioni di vario tipo, a seconda dei desiderata del giocatore. Dal punto di vista della scienza dei materiali contemporanea, possiamo dire che dietro alle parole sferico, rotazione, liscio, contatto fra due superfici, si potrebbero mettere in fila decine di migliaia di ricerche che hanno studiato i materiali più diversi nelle condizioni più diverse per quanto riguarda attriti, effetti rotatori, movimentazioni d'ogni genere, insomma. Ascoltate questa voce, commenta delle immagini, troverete il video nella sezione multiscienza del nostro sito, delle immagini nelle quali si vede un braccio meccanico che lancia una palla da bowling sulla pista. Questo robot lanciatore lo hanno chiamato Harry. Harry is equipped with two clamps. A piston and cylinder assembly opens and closes the pneumatically actuated hands to pick up and release balls. Ecco qui. La voce dice appunto che Harry è dotato di dita meccaniche che vengono infilate nei fori della boccia, ha una mano controllata completamente via computer, ha sistemi idraulici, elettronici e ad aria compressa che guidano il movimento del braccio. Su un lato della pista poi è collocata una sequela di laser e questo permette di registrare tutta la traiettoria della palla. Il braccio non è altro che lo strumento terminale di una complessa installazione che registra ogni possibile variazione nel lancio e nel percorso della boccia. La ricerca è stata sviluppata nei laboratori dell'Associazione Nazionale per il Bowling Americana negli Stati Uniti e infatti in questo paese lo sport è diffusissimo e molto praticato. Cosa sta venendo fuori da questa indagine? È semplice. Se si mettono in atto alcuni interventi tecnologici, i materiali delle superfici di gara, per esempio, ne esce che il loro comportamento fisico può diventare assolutamente standard. Una superficie che presenta una condizione di attrito assolutamente uniforme diventa anche, attenzione a questo concetto, completamente prevedibile. Una boccia, che analogamente risulta rispondere in modo fortemente standard ad ogni input rotatorio, bene, ancora una volta si presenta come uno strumento che chiunque impara ad usare commettendo pochissimi errori. Perché poi è qui il punto cruciale. Un eccesso di tecnologia fa sì che tirare giù i birilli tutti al primo colpo e ad ogni colpo diventa un gioco da ragazzi. L'Associazione Americana del Bowling sta quindi cercando di capire quali dosi di tecnologia inserire, prima che il bowling diventi uno sport nel quale si va a vedere come giocano le bocce e non chi le tira. Problemi analoghi, non identici, stanno emergendo anche da altre parti. I costumi dei nuotatori ne sono un ulteriore esempio. Lo si è visto a Pechino. In ogni finale si sono battuti decine di record da parte di decine di nuotatori, anche quelli che arrivavano quarti. La fluidodinamica studiata per questi costumi dà evidenti vantaggi, ma si è già capito che il peso del nuotatore è un fattore cruciale. Chi pesa di più, naturalmente non 150 kg, è avvantaggiato. Meglio, non è raggiungibile in pratica proprio per la fluidodinamica espressa da questi costumi. Dove ci si sta dirigendo allora? Siamo in uno sport dove si vince per centesimi di secondo, già si è capito da anni che i nuotatori e nuotatrici devono avere corpi molto simili per entrare nelle competizioni, perché è con quei corpi che si ottiene il massimo. Se a questi standard fisiologici si aggiunge una tecnologia che esalta ulteriori aspetti della fluidodinamica del corpo, finiremo per avere alle Olimpiadi, e per parlare solo di maschi, soltanto atleti con 1,87 di altezza, orecchie leggermente a sventola, 78 kg di peso, piedi numero 44, braccia di 94 cm e chissà, magari privi del mignolo in entrambi le mani. Solo loro potranno arrivare nei primi 10 posti delle finali mondiali. Buonasera Maurizio Menis. Buonasera Federico. Mi dicono che stai per portarci su un circuito, quello di Rockingham in Inghilterra. Perché ci andiamo? Beh, intanto ci andiamo per pochi secondi, siamo nel luglio scorso. Ah, quindi torniamo indietro. Esatto, durante una competizione molto particolare, tanto per dare un'idea, una competizione che si svolge su medie dei 30 km orari. Parliamo della Shell Eco Marathon, ci spiegherà poi il nostro ospite di cosa si tratta. Invece adesso ascoltiamo un attimo. Va bene. Ecco, qui senti le voci del pubblico, l'atmosfera eccitata. Ecco qua. Comincia a sentire il suono del veicolo. Lieve, un soffio quasi. È un po' strano questo suono. Ecco, quello che abbiamo sentito è il veicolo con cui ha partecipato l'X-Team, il team della Fondazione Politecnico di Milano, a questa gara, alla Shell Eco Marathon, che è arrivato decimo su un'ottantina di veicoli. Non è male, dai. Direi di no. Lascia che ti dia qualche dato su questo veicolo. È una specie di würstelone a tre ruote, pesa 45 kg, è lungo poco meno di 3 metri e ha un frontale di 80x60 cm, quindi un veicolo estremamente aerodinamico, la cui forma è ispirata a quella di una goccia d'acqua e offre all'aria sì e no, insomma, mezzo metro quadro di superficie. Il pilota, che in questo caso è una pilota, bisogna precisare, sta praticamente sdraiato. Sì, insomma, certo. Un veicolo dentro il booster, sì. Essenziale e privo di qualunque comfort. Direi però a questo punto di passare la parola al nostro ospite, che è Paolo Magni di Fondazione Politecnico, che è il team manager del progetto e che ho incontrato qualche giorno fa alla fiera HTE di Milano, dove esponevano appunto il loro veicolo. Per cominciare gli ho chiesto una cosa: che cos'è la Shell Eco Marathon e in che modo la Fondazione Politecnico sostiene l'iniziativa. La Shell Eco Marathon è una competizione organizzata dalla Shell e volta agli studenti di tutta Europa. Una volta l'anno 200 squadre di studenti di ogni ordine e grado si incontrano su un circuito europeo e competono con un veicolo da loro realizzato e vince chi consuma meno. La Fondazione Politecnico dal 2005 coordina e promuove la partecipazione di una squadra di studenti del Politecnico di Milano a questa manifestazione e abbiamo ottenuto anche dei risultati lusinghieri, insomma dopo qualche anno di apprendistato i risultati sono arrivati. Diciamolo questo risultato. Quanti chilometri con un litro, diciamo per il momento, di benzina, poi spieghiamo? Allora, noi attualmente deteniamo il record italiano di efficienza per un veicolo con una prestazione di 1931 chilometri al litro. Ecco, qui alcuni dei nostri ascoltatori sverranno. Bisogna spiegare che ovviamente siamo in presenza di un veicolo tutto orientato al risparmio. Quali sono gli elementi fondamentali che consentono questo risparmio? Sì, esattamente. Questo è un prototipo realizzato da studenti del Politecnico, nelle strutture del Politecnico, con l'unico scopo di consumare il meno possibile fin dal primo giorno. Quindi è un veicolo estremo, si tratta di una monoposto, tre ruote, due davanti e una posteriore. Quella posteriore è motrice sterzante, abbiamo una carrozzeria in carbonio e un telaio in alluminio, L'alimentazione è tramite una fuel cell, cioè si tratta di un veicolo elettrico alimentato da una fuel cell o pila a combustibile, che altro non è che un convertitore di idrogeno in acqua, e calore ed energia elettrica. Quello che ha vinto la maratona, quanto ha fatto? Da quel punto di vista abbiamo ancora molta strada da fare, nel senso che si vince sopra i 3.000 km con un litro, e considerando che però il record assoluto mondiale è di oltre 5.300. Contiamo di avvicinarci con il veicolo nuovo che abbiamo in costruzione al momento. Dunque è evidente che un tipo di veicolo di questo genere non può essere semplicemente trasferito sulla strada, manca di qualunque comfort, però ci dà un'idea abbastanza chiara di quali siano i margini di miglioramento in termini di efficienza di questo tipo di veicoli. E io le chiedo di rispondere a partire da un'osservazione che lei ha fatto prima: gli aerei sono tutti uguali, le macchine no. Sì, allora questo è senz'altro un veicolo estremo, come una Formula 1 sta a una coupé stradale. Diciamo che quello che io posso dire è che noi, quando progettiamo questo genere di veicoli, abbiamo sempre e solo un'unica domanda in testa: come possiamo ridurre i consumi? Una delle prime voci è facendo un veicolo il più aerodinamico possibile. La considerazione di prima era relativa al fatto che, se noi prendiamo un dato periodo storico, vediamo che per esempio gli aerei, facciamo un esempio, gli aerei di linea si assomigliano tutti quanti perché rappresentano lo stato dell'arte in quel periodo. Per le automobili invece non è così. A parità di categoria, voglio dire station wagon, monovolume, SUV, coupé e quant'altro, sono una diversa dall'altra, perché magari una ha una piega sulla carrozzeria da una parte, una nervatura dall'altra e così via. Questo significa anche che non vengono progettate secondo una legge fisica, quali per esempio è la miglior penetrazione aerodinamica, quanto piuttosto per piacere, secondo un certo criterio, al consumatore, o perlomeno per come il marketing delle case automobilistiche percepisce i desideri del consumatore. Ecco, abbiamo sentito Magni, bisogna precisare una cosa: ci sono molte categorie all'interno di questa competizione, categorie molto meno estreme e più vicine quindi alla consuetudine, come la categoria City Car, che registra comunque consumi dell'ordine di centinaia di chilometri per un litro di benzina. Va bene, senti, immagino che sul nostro sito avrai fatto una sezione in cui si vedono anche le immagini. Ci sono immagini, ci sono filmati... È abbastanza curioso il tutto. www.moebiusonline.eu, questo è l'indirizzo. Grazie Maurizio. Grazie a te Federico. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siete pronti? Perché sta per arrivare il nostro gioco, il quiz. Dunque, avete un'auto con un sistema di chiusura elettronica, di quelli con il perno della portiera che si solleva quando fate clic con il telecomando. Però, ecco cosa è successo, vi siete persi il telecomando. Per combinare qualcosa, rimettere in moto l'auto facendo contatto con i fili, per esempio, bisogna entrare nell'abitacolo. Oppure avete dentro una borsa, una valigia che vi serve, insomma, per recuperare il nuovo telecomando ci penserete dopo. Bene, quali di questi attrezzi vi può servire per aprire la porta? Primo, una palla da tennis, ci scriverete tennis. Un telefono cellulare, ci scriverete cella. Oppure un cavatappi con il punteruolo a spirale, ci scriverete tappi. Come ci scriverete? Con l'SMS 349-238-6666. Cosa si vince? Si vince il libro La leggenda del buon cibo italiano, scritto da Paolo Conti, edito da Fazzi Edizioni, e con Paolo Conti e del suo libro parleremo fra poco. In collaborazione con IBS.it. Va bene, ci sono cose di cui è difficile parlare, però il fatto che sia difficile parlare non ci esime dal trovare un modo per farlo. Credo che il mio ospite questa sera sia d'accordo con me, Giulio Conte. Sì, sono assolutamente d'accordo. Buonasera Conte, biologo, svolge attività di consulenza ambientale, in particolare lavoro all'Istituto Ambiente Italia, dove è responsabile dell'area risorse naturali. Allora Conte, lei è questa sera con noi perché è autore del libro Nuvole e Sciacquoni, edito da Edizione Ambiente, sottotitolo Come usare meglio l'acqua in casa e in città. È un testo che descrive anche la storia della relazione che le società umane hanno avuto con l'acqua, però poi si concentra nel tracciare nuove tecniche e soluzioni per migliorare questo rapporto. Allora, l'argomento difficile a cui mi riferivo all'inizio, beh, insomma, è un po' contenuto nel titolo, no? Nuvole e sciacquoni. Siamo rimasti d'accordo, Conte, che per nominare le cose che sono al centro appunto di questo tema difficile useremo queste due definizioni, la gialla e la marrone. Mi pare che anche lei sia d'accordo. Benissimo, va benissimo. Vada allora, per la gialla e la marrone. Vada per la gialla e la marrone e andiamo subito al centro del problema. Per quale ragione sarebbe importante, anche dal punto di vista proprio dell'utilizzo dell'acqua, separare questi due percorsi, a partire dal sanitario, insomma? Dunque, è molto semplice, anche se non sempre ci fermiamo a pensarci. In realtà, fino alla metà quasi del 1900, la destinazione della gialla e della marrone, per l'appunto, era sostanzialmente quella della concimaia. La parola concimaia ci dice che era sostanzialmente un fertilizzante, ed è un fertilizzante, infatti soprattutto la gialla contiene delle importantissime sostanze fertilizzanti, in particolare l'azoto e il fosforo. Sì. Bene, queste sostanze venivano accumulate e venivano riutilizzate, perché erano il modo con cui si poteva rifertilizzare i campi una volta che uno aveva mietuto, aveva portato via prodotti e quindi aveva impoverito il suolo. Per restituire i nutrienti al suolo si utilizzava quella degli animali, ma anche la nostra. Dalla metà del secolo scorso abbiamo cominciato invece a buttarla in acqua. Questo comporta una serie di grandi problemi, quello che alcuni grandi esperti internazionali chiamano il fenomeno della fertilizzazione globale delle acque, cioè abbiamo cominciato a fertilizzare l'acqua invece che fertilizzare la terra. Fertilizzare l'acqua comporta una serie di problemi, inquinamento, eutrofizzazione, eccetera. Quindi, fermandoci a pensare un attimo, forse è possibile trovare delle soluzioni, senza ovviamente cambiare completamente i nostri stili di vita indietro all'Ottocento, però trovare delle soluzioni che ci permettano di recuperare queste preziose sostanze che sono contenute proprio nella gialla e nella marrone. Noi, Conte, tempo fa abbiamo anche intervistato un ricercatore svizzero, se non ricordo male, del Politecnico di Losanna, che ha progettato dei sanitari separanti, definiamoli così. Le chiedo però, Conte, a valle dei sanitari ci sono i depuratori nelle città, in un paese come il nostro. In questi depuratori non si riesce ad avere questa separazione tra le sostanze preziose della gialla e tutto il resto? Dunque, il depuratore normalmente è progettato per rimuovere la sostanza organica, quindi la sostanza organica è prevalentemente presente nella marrone, mentre i nutrienti, in particolare l'azoto e il fosforo, li rimuove molto poco e la gran parte finiscono in acqua. In acqua. Quindi è difficile ovviamente separarli a valle, non è impossibile, cioè è possibile realizzare dei depuratori che rimuovono anche l'azoto e il fosforo, però costano molto di più ed è una delle strategie che si sta adottando ora per cercare di risolvere l'inquinamento da azoto e fosforo. Qual è il problema? È che noi in questo modo facciamo un'operazione economicamente ed ecologicamente un po' assurda, perché in pratica spendiamo molti soldi e molta energia per levare dalla nostra acqua di scarico azoto e fosforo, sostanze preziose, e sostanzialmente perderle perché non vengono riutilizzate, è molto difficile riutilizzarle, e poi spendiamo ancora molta energia e molti soldi per fissare artificialmente, fare dei fertilizzanti sintetici per l'azoto, e per il fosforo addirittura andarlo a cercare nelle miniere perché non è possibile sintetizzarlo artificialmente. Quindi andiamo a duplicare un costo quando, separando la fonte, avremmo una riduzione dei costi e un vantaggio ecologico evidente. E qui siamo alla conclusione, perché tra l'altro appunto mettendo insieme tutto c'è un gran consumo d'acqua. E però allora la soluzione sarebbe avere un sistema di contenitori che poi, con una struttura, una rete insomma di raccolta abbastanza capillare, potrebbero convogliare la gialla, beh, insomma, ritornerebbe in agricoltura. Esattamente. Il vantaggio sarebbe ovviamente di avere un fertilizzante che non dobbiamo più sintetizzare artificialmente, quindi un risparmio economico ed energetico, un vantaggio ecologico perché sostanzialmente ripristiniamo il naturale ciclo dei nutrienti e infine un notevolissimo risparmio d'acqua perché sostanzialmente per scaricare la gialla serve pochissima acqua, non mentre noi oggi ogni volta che scarichiamo buttiamo letteralmente nel cesso dai 10 ai 15 litri d'acqua, certo. Invece in quel caso con meno di un litro d'acqua, alle volte anche senza acqua del tutto, ci sono degli specifici sistemi sanitari che permettono di raccogliere la gialla senza alcun consumo d'acqua, ecco, con queste soluzioni quindi noi risparmieremo moltissima acqua. Conte, la ringrazio. Allora, Giulio Conte, Nuvole e Sciacquoni è il libro che lei ha scritto, edito da Edizioni Ambiente. Grazie e buon lavoro. Grazie a tutti voi. Che cos'è la peridotite? Potrebbe sembrare una malattia, non lo è. È una cura invece, ma non per il nostro corpo. È una cura per il pianeta e quindi, a guardar bene, anche per il nostro corpo. La peridotite si trova usualmente a 20 km di profondità nella Terra. Si fa un buco e la si trova lì. Ma capita che in più punti del pianeta il movimento delle placche continentali, quel fenomeno che porta su quello che stava giù, no? Pensate alle conchiglie che si trovano nelle pareti delle montagne a 3.000-4.000 metri, e che quindi una volta vuol dire che stavano sul fondo del mare. Bene, questo movimento fa emergere in superficie la peridotite in qualche punto del pianeta. Ciò accade in particolare nel deserto dell'Oman, e qui l'hanno studiata due ricercatori tedeschi, Peter Kelemen e Jürg Matter, che però lavorano alla Columbia University di New York. La peridotite fa una cosa molto importante, che potremmo definire così. Si ciba di CO2. Eh sì, si tratta di una reazione chimica che avviene semplicemente a contatto con l'aria, che contiene CO2. La peridotite la cattura reagendo con essa e producendo composti carbonati come il calcare o il marmo. I due ricercatori tedeschi hanno dimostrato che la peridotite del deserto dell'Oman assorbe ogni anno decine di migliaia di tonnellate di CO2. Il calcolo si basa sugli strati di roccia che sono immediatamente disponibili in superficie. Però, se questi strati, che sono comunque già affiorati, fossero frantumati, sminuzzati e quindi anche dispersi maggiormente, in modo da utilizzare la quantità di peridotite disponibile in 2 o 3 metri, bene, il potenziale di assorbimento sarebbe moltiplicato di un fattore 100.000, quindi veramente un dato enorme. Fatti i conti, quindi, la sola zona del deserto dell'Oman interessata da questo tipo di formazioni rocciose, solo questa zona sarebbe in grado di assorbire 4 miliardi di tonnellate di CO2. Il nostro pianeta, con noi sopra che ci diamo da fare, no? Come sappiamo, nel produrre CO2, il nostro pianeta ne produce 30 miliardi ogni anno. Quindi nel deserto dell'Oman se ne assorbirebbero soltanto lì 4. Il dato interessante però è che di zone con peridotite ve ne sono altre. Ci sono in Grecia, per esempio, ma anche negli Stati Uniti, anche in Croazia, quindi non lontano da noi. La scorsa settimana vi abbiamo parlato delle prime immagini fotografiche di esopianeti, cioè di pianeti fuori dal nostro sistema solare. Abbiamo anche intervistato Giovanna Tinetti, astrofisica italiana che però lavora presso l'University College di Londra. Adesso, sempre dal suo gruppo, arriva un'altra notizia piuttosto importante. Il pianeta HD, vi do tutto il numero, HD189733b, forse possiede nella sua atmosfera tracce di anidride carbonica, anzi sono abbastanza certi i ricercatori. Il pianeta dista 63 anni luce dalla Terra, possiede una massa simile a quella di Giove, ma orbita molto più vicino alla sua stella e di conseguenza ha una temperatura elevata, lo hanno anche chiamato Giove caldo. Per ottenere lo spettro di luce completo del pianeta, che ne rivela la composizione chimica, Tinetti e i suoi colleghi hanno utilizzato una tecnica nota come secondary transit. Dopo aver ottenuto lo spettro unificato di pianeta e stella messi insieme, gli scienziati inglesi hanno sottratto lo spettro del solo astro, ricavando così le informazioni relative all'atmosfera di HD. Confrontando i risultati con i modelli teorici, gli astrofisici hanno infine dedotto la presenza di anidride carbonica, CO2, nell'atmosfera di questo pianeta extrasolare. La Tinetti ci ha detto: questa scoperta è assolutamente eccitante, è il primo spettro vicino all'infrarosso di un pianeta, anche dal punto di vista tecnico, insomma, il risultato è molto prezioso. La CO2 è uno dei quattro componenti fondamentali, gli altri sono acqua, metano e ossigeno, componenti fondamentali perché un pianeta sia abitabile, non pensiamo certo di andarci a vivere, ma insomma che ci possa essere vita. L'unico elemento non ancora rilevato sul pianeta extrasolare è l'ossigeno in forma libera. Comunque i ricercatori raccomandano cautela, saranno necessarie altre osservazioni per capire quale reazione abbia dato origine alla CO2 di HD. Potrebbe essersi formata da una reazione fotochimica oppure termochimica. La Tinetti però in conclusione ci ha detto: siamo estremamente vicini forse al momento in cui potremo affermare di aver trovato un pianeta simile alla nostra Terra, e quindi dobbiamo aspettare, vedremo. Comunque, se volete sapere di più, avere anche immagini dei pianeti fotografati, di queste prime fotografie di pianeti e poi anche altre informazioni su questa ultima scoperta, andate al nostro sito, nella sezione in home page delle news, troverete tutti i link a questi approfondimenti. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Buonasera Chiara Albicocco. Buonasera, un saluto a tutti. Allora, qui leggo: la leggenda del buon cibo italiano è il titolo di un libro. Forse non è vero che ci sta proprio crollando un altro mito, eh? E purtroppo mi dispiace dirlo, ma credo di sì. Infatti Paolo Conti, che è l'autore di questo libro edito da Fazzi Editore, è un giornalista che per alcuni anni si è impegnato nel dimostrare che il cibo italiano non fosse poi di così cattiva qualità, ma purtroppo dalle ricerche e dalle interviste fatte sembrerebbe proprio così. Ecco, però io posso dire ai nostri ascoltatori: guardate che è più complessa la cosa, seguiteci per una decina di minuti che arriveremo a delle conclusioni interessanti. Sì, sì, la cosa è complessa. Abbiamo scoperto che agli italiani piace il cibo bello e gustoso, soprattutto per un fatto estetico, ma adesso ne parleremo. La prima cosa che gli ho chiesto è appunto di parlarci di quest'immagine che emerge dalle pagine del suo libro, uno yogurt alla fragola che non ha mai visto una fragola in vita sua. Per quanto riguarda lo spunto che dicevi della fragola, questo è uno dei tanti argomenti che la gente, poca gente sa, sul discorso degli aromi. Gli aromi si dividono in aromi artificiali e naturali, ma anche quando si tratta di aromi naturali, di naturale c'è poco. Di naturale c'è poco perché esistono degli strumenti, si chiamano spettrografi di massa, che analizzano le molecole che compongono in questo caso la fragola, e quindi chi produce gli aromi può prendere ogni singola molecola da delle cose diverse, aggregarle e poi ottenere un aroma che è naturale, perché di fatto deriva da diciamo sostanze naturali, ma che non deriva affatto da una fragola. Diamoci del tu, Paolo. Ecco, tu nel tuo libro parli di tecnocibo, che è diciamo proprio un alimento costruito e assemblato chimicamente il laboratorio, possiamo quasi dire. Diciamo che la divisione che io ho fatto è quella che tra ecocibo e tecnocibo, è una macro divisione che però mi serviva per capire un po' qual è il trend del momento. L'ecocibo è tutta l'alimentazione che in qualche modo è naturale o è prodotta vicino a noi, oppure il biologico. Il tecnocibo invece è l'alimentazione che fa un uso molto forte della tecnologia, che non è male di per se stesso, tutt'altro, no? Io so che il futuro dell'alimentazione, quello che mangeranno i miei figli, i nostri figli, sarà sicuramente un equilibrio tra il tecnocibo e l'ecocibo. E qui bisogna capire, diciamo, come sarà questo equilibrio, se sarà sbilanciato in una direzione piuttosto che nell'altra. Nella fattispecie, per quanto riguarda il cibo italiano, noi siamo convinti, e in qualche modo anche nel mondo ci riconoscono, che il nostro è fortemente ecocibo, quando in realtà invece gran parte di questo circa 10% del PIL italiano che deriva dall'alimentazione deriva da alimenti che sono fortemente trasformati, e quindi fanno parte di fatto non dell'ecocibo ma del tecnocibo, tutto qui. Ci sono tantissimi alimenti addizionati chimicamente, ecco, questo nei banchi del nostro supermercato possiamo dire che la maggior parte, diciamo, degli alimenti che possiamo trovare sono appunto addizionati da questi alimenti. Io vorrei fare un esempio su tutti che tu citi nel tuo libro e a me è impressionato, è quello che riguarda il prosciutto cotto. Allora, tu dai questo dato: il prosciutto cotto di qualità scadente è composto da acqua e additivi alimentari per un buon 50%, alcuni addirittura 100%. Invece quelli di buona qualità, tu dici, si salvano per un 25%. Ecco, questo è un dato fortissimo, cioè da una coscia di prosciutto, insomma, di maiale ce n'è il 50%, tutto il resto è acqua e additivi. Ma in realtà, cioè, anche questo ha sempre a che fare col discorso dell'educazione alimentare. Sicuramente è importante sapere, diciamo, quanti grassi bisogna mangiare, quante proteine, quante vitamine, che è un aspetto nutrizionale fondamentale, evidentemente. Però è altrettanto importante sapere come il cibo viene prodotto, no? Il caso del prosciutto cotto che hai fatto è un caso importante. Non che mettere l'acqua nel prosciutto cotto sia sbagliato di per sé, perché fa parte del processo di produzione del prosciutto. Ecco, no? Io ti do ragione su questo, nel senso che non è pericoloso per la salute, però un po' fa impressione. Infatti, beh, se tu vedessi la preparazione dei würstel, diciamo, fa ancora più impressione. Ecco, no? Io sul tuo libro l'ho letta. Se vogliamo dirlo anche agli ascoltatori, diciamolo pure, da cosa sono composti i würstel italiani. Ma insomma, diciamo che molti würstel italiani, non facciamo di ogni erba un fascio, ma sono prodotti sono fatti con acqua e cotica di maiale frullata, alla quale poi vengono aggiunti degli additivi per condensarla, per togliere le schiume e diciamo per renderla un pochettino più accettabile. Poi vengono messi degli aromi, spesso artificiali, che servono appunto a dare l'aroma. Se poi si vuole che in qualche modo abbia un gusto di affumicato, basta aggiungere l'aroma fumo, che anche questa è una sostanza. Una piccola molecola, insomma. È una piccola molecola, insomma. E quindi poi alla fine si ottiene questo prodotto che è il würstel. Ecco, io credo che per esempio ai bambini o alle persone in generale bisognerebbe dare delle informazioni su come il cibo viene prodotto, perché questo darà a loro poi, no? La capacità di discernere tra un alimento e l'altro. Un criterio di scelta, hai ragione. Infatti questo dobbiamo dirlo, insomma, gli additivi chimici non sono pericolosi per la salute. Tu nel tuo libro dai un sacco di spunti, alcuni ovviamente anche su alimenti che sono dannosi per la salute, come ad esempio il mercurio nel pesce, però qua apriamo un mare magnum ed è meglio non toccare questo argomento. Però rimanendo su quella che è la qualità del cibo, soprattutto apparente, cioè che abbia un gusto, un buon gusto e che sia piacevole, insomma, anche alla vista, qui l'azienda alimentare fa ricorso alla chimica, non c'è niente da fare. Cioè il 99% degli additivi, tu dici, che vengono aggiunti non produce nessun effetto sulla salute, però sono cosmetici. Esatto. Capisci? Cioè, in qualche modo, allora, noi viviamo in un mondo in cui ci siamo abituati ad avere a disposizione tanto cibo di tanti tipi diversi per tanto tempo, quindi la shelf life, che è cioè la durata dei cibi sugli scaffali, deve aumentare di continuo. Perché aumentando poi in qualche modo le aziende alimentari hanno la possibilità di ottimizzare i flussi, no, del cibo. Allora, da questo punto di vista, aumentare la shelf life significa aggiungere ai cibi delle sostanze che gli permettono di vivere di più. La filiera corta, di cui si parla molto spesso e che è sicuramente una cosa buona, potrebbe essere una risposta a questo, il localismo, sì. Il fatto di consumare dei cibi che vengono prodotti vicino a noi. A casa, io per esempio ho smesso di bere del vino che viene prodotto lontano, non scelgo un vino di un paese piuttosto di un altro, ma cerco di scegliere un vino che viene prodotto vicino a me. È una piccola cosa che ognuno può fare, ma che comunque poi produce un risultato molto concreto. Ecco, il fatto di avere sempre sui banchi del supermercato un cibo bello, gustoso, influisce anche sul prezzo, nel senso che l'aggiunta di questi additivi sicuramente avrà un costo inferiore per le aziende piuttosto che utilizzare materia prima DOC, diciamo così. Guarda, in realtà gli additivi non è che costino tanto di per sé, però diciamo che alcuni dei cibi più naturali e che quindi poi hanno una durata, e il discorso riguarda i flussi di produzione, no? Se io produco una cosa che poi dura dei mesi, ma fai l'esempio per esempio delle insalate in busta, no? Sì. Questo è un esempio molto lampante. Che troviamo nel libro, sì. Esatto, sì, le insalate in busta, innanzitutto io per esempio non le compro. non le compro, e tra l'altro diventa, questo va detto, sempre meno facile non comprarle, perché nei supermercati, che è poi vero, il luogo primario in cui noi andiamo a comprare il cibo, sono sempre più presenti, e le insalate invece, quelle non in busta, sono sempre più difficili da trovare. Ma a parte questo, le insalate in busta vengono innanzitutto lavate in vasche che contengono una quantità di cloro 50 volte superiore a quella delle piscine dove facciamo il bagno, le piscine pubbliche, quindi sì, tantissimo cloro, e non sempre questo cloro viene tolto con i lavaggi industriali. Quindi, diciamo, se non sbaglio è stato intervistato recentemente da una giornalista, da una collega inglese, l'amministratore delegato di una di queste aziende che producono queste insalate, e lui ha ammesso di lavarla prima di mangiarla, no? Lui, benissimo. Sì, infatti lui. E quindi diciamo che vanno sicuramente lavate. Poi c'è il discorso che sono confezionate in queste atmosfere che vengono chiamate protettive, diciamo, sul mercato, ma in realtà il nome tecnico è atmosfere modificate. Certo. Vengono modificate per fare in modo che il fenomeno dell'ossidazione duri, diciamo che le insalate si ossidino di meno, quindi diventino meno brutte col passare del tempo. Questo però non toglie che alcune altre sostanze nutritive vengano perdute col tempo. Quindi, ancora una volta, una sorta di inganno. Noi crediamo di mangiare qualche cosa, ma in realtà stiamo mangiando qualche cos'altro. E in ultimo il prezzo. Allora, le insalate in busta costano molto di più delle insalate però normali, la gente fino le a predilige. 20 volte. E io vorrei dire una cosa, la gente le predilige perché ritiene sono che siano più pratiche. Certo. Sì, però io ho fatto un test. Allora, prendere un cesto di insalata, tagliarlo e diciamo scuoterlo, io non uso quelle sì, macchinette di plastica, ma lo faccio nello straccio alla vecchia sì, maniera, ci ho messo 1 minuto e mezzo. Allora, siamo davvero riteniamo davvero giusto risparmiare 1 minuto e mezzo della nostra vita per spendere fino a 20 volte di più per comprare un'insalata? Ecco, io con questa domanda chiuderei, anche se in realtà gli spunti dal tuo libro sono numerosissimi, avrei voluto parlare di tantissimo altro, ma il tempo a disposizione non ce lo permette. Grazie Paolo, buona serata. Grazie a voi e buon lavoro. Abbiamo sentito allora Chiara Paolo Conti, adesso sì, il nostro ospite nuovo è Carlo Cantoni. Buonasera Cantoni. Buonasera. Sera, buonasera. Ordinario di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale all'Università Statale di Milano, quindi pensiamo che lei sia la persona più adatta per rendere un po' più complicate e per spiegare anche meglio le cose che abbiamo sentito. Allora, nell'intervista si è parlato per esempio di prosciutto cotto. Sì, è stato un bel esempio. È stato un esempio abbastanza dettagliato, Cantoni. Forse possiamo partire da questo alimento con lei per vedere appunto di descrivere com'è questo rapporto complesso tra qualità e quantità. Oggi, per quanto riguarda il prosciutto cotto, esiste un decreto ministeriale che è in funzione del 21 settembre 2005, che è stato emanato dopo gli interventi sentiti tecnici di categoria, dove si danno le esatte definizioni di prosciutto cotto, che cos'è il prosciutto cotto, in cui si distinguono diversi tipi di prosciutto cotto, cioè quello di alta qualità con dei prosciutti di qualità media. Perché questa distinzione? Perché il prosciutto cotto in origine, quando fu ideato, e parliamo di 50-60 anni fa nella versione tecnologica attuale, era un prodotto destinato ad essere consumato da tutti. Quindi il legislatore di allora aveva permesso l'impiego di certi additivi come i polifosfati per far sì che il prodotto non perdesse l'umidità che avrebbe perso durante il trattamento di cottura. Mi spiego. Durante il trattamento di cottura si perde il 30% di acqua, da cui ne risulta un prodotto che è un lesso, non è più un prosciutto cotto con queste caratteristiche. Sì. Mm. Allora, in quei tempi si era abusato molto con i polifosfati, ovviamente per guadagnare, perché i produttori volevano guadagnare di più. Questa fase finì con l'avvento del cosiddetto benessere italiano, per cui gli italiani che già sono portati ad un edonismo alimentare alto, accentuatissimo, no? Cioè, rispetto alle altre popolazioni mondiali, no? I produttori si organizzarono e per evitare tra di loro appunto queste difformità di qualità, giunsero alla conclusione di classificare i prodotti. Oggi noi comunque abbiamo dei prosciutti cotti di alta qualità che sono venduti come tali e dei prosciutti cotti di media qualità. Infatti Conti ci diceva che quelli di bassa qualità addirittura più del 50% sono costituiti da questi polifosfati d'acqua, invece gli altri, quelli di buona qualità, almeno hanno un 25% di questa composizione. Sì, ci sono nel decreto, ci sono le norme proprio precise circa la composizione di questi prodotti. Il fatto, i prodotti di media qualità, è ovvio che quando uno compra un prodotto alimentare deve innanzitutto leggere bene l'etichetta per sapere cosa sceglie, perché se mi va a comprare un prodotto cotto di scarsa qualità e lo paga come un prodotto di alta qualità, allora qui è una truffa evidentemente, capisce? Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Torniamo a parlare di qualità del cibo italiano con Carlo Cantoni dell'Università Statale di Milano, dove è ordinario di ispezione e controllo delle derrate alimentari. Allora Cantoni, io quello che volevo chiederle è questo, cioè è chiaro che c'è una potenziale grande qualità del cibo italiano, ma quando si deve parlare di riempire i supermercati, insomma, si riesce di fatto, come dire, proprio è possibile, sarebbe possibile avere, mantenere questa grande qualità? Sì, ma certamente le marche che vanno per la maggiore oggi sono delle marche che producono dei prodotti assolutamente di grande qualità, anche perché sono normate ormai da una legislazione precisa e hanno tutto l'interesse a tenere alta questa qualità. Però con costi elevati, cioè costa, quella roba lì non può costare meno di un tot. No, ma certo, il problema della qualità dei nostri prodotti è legato al prezzo, no? Ovviamente la nostra produzione salumiera ha spinto all'eccesso la qualità, con il risultato che adesso si trova in difficoltà perché ovviamente le categorie che possono assicurare un reddito sono le categorie che paradossalmente ne hanno meno, cioè voglio dire in termini molto più semplici i poveri sono più numerosi dei ricchi. Questo è indubbio. Però siccome il mercato lo fanno i poveri soprattutto, è ovvio che questi devono, cioè chi non può prendere, chi non è abbiente, non chiamiamo il termine povero che è brutto e poi non va bene, i non abbienti cercano di, si rivolgono ai prosciutti di media qualità, è per questo che le ditte continuano a produrre sia quelle di alta qualità per una certa categoria di persone e quelle di bassa, di qualità media, diciamo così, per coloro che non hanno la capacità economica di sfamarsi con dei prodotti che costano più del prosciutto crudo, insomma. Ma infatti noi poco fa, ad esempio, con Paolo Conti dicevamo che appunto questi additivi alimentari, questi additivi chimici non sono in realtà pericolosi per la salute, sono soltanto, appunto, fanno storcere un po' il naso perché il cibo deve apparire bello, buono, però la materia prima spesso non è quella originale. Sì, c'è da dire una questione. La oggi, per la produzione, per la necessità di rifornire di cibo a tutta la popolazione, non si può fare a meno di ricorrere a degli additivi, no? Ora, gli additivi sono ben stati individuati, sono assolutamente innocui perché devono passare una trafila di controlli prima di essere usati e possiamo stare tranquilli da questo punto di vista. Non ci sono assolutamente rischi. Capite? D'accordo. Il fatto che si mettono della caseina, per esempio, dell'amido, non sono altro che delle sostanze che trattengono quella percentuale di umidità che comunque non può superare quella del contenuto naturale della carne. Questo è il problema, eh? Allora, Cantoni, forse quello che dobbiamo riuscire a diffondere è il fatto che quando parliamo di marchio di qualità del nostro cibo, beh, insomma, non dobbiamo costantemente metterlo insieme alla grande produzione. Ecco, questo. Assolutamente, la produzione si differenzia in vari tipi di qualità di prodotti, per questo che i produttori si sono dati da fare per avere un decreto che assicurasse loro questa possibilità di produzione, per evitare che tra di loro ci fossero delle discrepanze e delle concorrenze sleali, ecco, diciamolo così. Va bene, professor Cantoni, grazie delle informazioni e dei chiarimenti. Buon lavoro, grazie, buonasera. Grazie a lei. Siamo alla soluzione del quiz. Allora, avete perso il telecomando che solleva il perno della portiera dell'automobile. Ci sono altri sistemi più recenti che non hanno il perno, ma tante auto invece sono così. Allora, quali strumenti per entrare nell'auto? Niente telefoni o cavatappi, si prende la palla da tennis. Le si fa un foro con un cacciavite, viene bene se vi riesce di scaldare la punta del cacciavite. Il foro deve essere del diametro di una sigaretta. Poi appoggiate la palla da tennis sul foro della serratura esterna e premete con rapidità. L'aria che è dentro la palla da tennis si infila nella serratura e solleva il perno. Andate al sommario della trasmissione sul nostro sito www.mebiusonline.eu e vedrete un filmato che appunto vi mostra come si fa. Poi a perdere il telecomando tocca a voi, mica possiamo fare tutto noi nel resto. Torniamo ad argomenti decisamente più seri e torniamo al 1932 quando, come abbiamo detto nei titoli, fu scritta nella cittadina americana di Tuskegee una brutta pagina nella storia della scienza. Ascoltate Barbara Gallavotti. 40 anni fa, centinaia di uomini traditi, insieme alle loro mogli e bambini, insieme alla comunità di Macon County, Alabama, la città di Tuskegee, la bella università locale e la grande comunità afroamericana. Il governo degli Stati Uniti fece qualcosa che era sbagliato, decisamente, profondamente, moralmente sbagliato. Quelle che avete sentito sono le parole pronunciate da Bill Clinton durante un discorso del 16 maggio 1997. In questo discorso chiedeva scusa per una delle vicende più traumatiche della storia medico-scientifica degli Stati Uniti, lo studio Tuskegee. La vicenda è stata presentata al pubblico dell'Auditorium di Roma il 9 novembre, sotto forma di una rappresentazione teatrale a cura della Fondazione Sigma Tau. Sul palco due attori hanno dato lettura a estratti originali, selezionati da Gilberto Corbellini, provenienti dal discorso di Clinton e dal rapporto del comitato che dovette giudicare i fatti. Il commento è stato poi lasciato a Silvio Garattini e Stefano Rodotà. Ma vediamo cosa fu questa drammatica vicenda Tuskegee. Tutto cominciò nel 1932 in Alabama. Alcuni medici decisero di svolgere uno studio sul decorso della sifilide, soprattutto nei suoi stadi più avanzati. Furono coinvolti 600 uomini afroamericani. Erano quasi tutti analfabeti e furono proposte loro assistenza ospedaliera gratuita, cibo ed eventualmente funerali gratuiti. Però ai 399 che risultarono affetti da sifilide non fu detto della loro condizione. Non fu detto all'inizio, quando avrebbero dovuto essere informati, anche se non esistevano cure a parte trattamenti con metalli pesanti molto tossici. E non fu detto neppure tempo dopo, quando 250 di loro furono trovati positivi per la sifilide alla visita di leva e quando avrebbero potuto e dovuto essere trattati con penicillina, questa sì efficace come cura. Incredibilmente, lo studio non era ancora cessato 40 anni dopo il suo inizio. Però nel 1972 la stampa scoprì la vicenda e la fece divenire di dominio pubblico. Si scoprì che dall'inizio della sperimentazione 28 uomini erano morti direttamente di sifilide e 100 per complicazioni associate alla malattia. 40 mogli erano state infettate e 19 bambini erano nati affetti da sifilide congenita. Il paese fu sotto shock. Nulla di simile era mai venuto alla luce in una nazione considerata civile. Non solo uomini afroamericani e le loro famiglie erano stati trattati in disprezzo dei più elementari diritti umani, ma per lunghi anni, dopo che la guerra era finita, non si era dato seguito alle norme sul consenso informato tracciate dopo il processo di Norimberga ai medici criminali nazisti, norme che erano state concepite proprio per delimitare il confine tra la tortura e la sperimentazione medica legittima. La vicenda di Tuskegee però non venne giudicata in maniera emotiva. Un comitato tecnico si occupò di analizzarla. Sulla scia delle reazioni che si scatenarono, il sottosegretario alla sanità del Dipartimento di Sanità, Istruzione e Stato Sociale istituiva il 24 agosto del 1972 il Tuskegee Syphilis Study Ad Hoc Panel. Ai 9 cittadini che furono chiamati a farne parte, sotto la direzione del docente afroamericano Brodaus Butler, veniva chiesto di A. stabilire se lo studio era giustificato nel 1932 e se doveva essere proseguito quando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la penicillina era diventata accessibile. B. consigliare lo studio dovrebbe essere continuato a quel punto e se no, come doveva essere interrotto in modo consistente con i diritti e le esigenze sanitarie dei partecipanti rimasti? C. stabilire se le politiche in atto per proteggere i diritti che partecipano alle ricerche sanitarie condotte o supportate dal Dipartimento della Salute, dell'Istruzione e del Welfare erano adeguate ed efficaci. D. raccomandare dei miglioramenti di queste politiche, se necessari. I risultati del rapporto furono spietati. Non solo lo studio risultò immorale e razzista, ma anche mal condotto, di fatto sostanzialmente privo di efficacia. Il trauma nazionale portò anche alla nascita di un altro rapporto che sancì le linee guida etiche per la sperimentazione biomedica su esseri umani, compreso ciò che riguarda la giustizia nella distribuzione dei benefici che ne derivano. Da allora la sperimentazione biomedica ha fatto molti progressi, ma ha anche posto nuovi problemi. Di conseguenza il dibattito su ciò che è lecito e ciò che non lo è non si è mai interrotto. Un punto cardine, unanimemente condiviso, è il fatto che tutti coloro che partecipano a sperimentazioni biomediche debbano essere adeguatamente informati e ovviamente consenzienti. Ma com'è possibile ottenere il consenso informato da persone ad esempio troppo incolte per capire davvero cosa si propone loro, o troppo deboli perché in carcere o in altre situazioni di disagio sociale. E cosa avviene in paesi come l'India, che anche nel legittimo desiderio di mettere a punto farmaci per la propria popolazione ha triplicato in 5 anni il volume di affari legato alla sperimentazione biomedica, o ancora in Cina o in Africa? È lecito o meno che coinvolgano in studi sperimentali come quelli sull'AIDS persone che vivono in nazioni estremamente povere e non avrebbero comunque accesso ad alcuna delle cure disponibili per i più ricchi? In fondo, se il giudizio sul caso Tuskegee è stato chiaro e deciso fin da subito, diverse delle domande centrali che la vicenda ha sollevato non hanno trovato risposta definitiva, né potranno forse mai trovarla, perché le condizioni sociali e scientifiche a contorno cambiano in continuazione, costringendoci a un inevitabile e incessante sforzo per comprendere cosa sia di volta in volta giusto fare, nella speranza di evitare vittime innocenti, sia fra quanti potrebbero essere coinvolti in sperimentazioni rischiose, sia fra quanti potrebbero beneficiare di cure innovative, se fossero sviluppate. Rappresentanti autorizzati della società hanno il diritto di circoscrivere alcune attività dei professionisti, e questo va accettato. Per esempio, viene limitata la discrezione dei medici di obbligare i pazienti contro la loro volontà o di prescrivere farmaci che danno dipendenza. Quindi, la domanda pertinente è: sotto quali circostanze e fino a che punto, attraverso quali mezzi, le attività dei medici e dei ricercatori dovrebbero essere controllate? Vi parlo adesso di una truffa che arriva dalla Cina. La truffa è quella del latte avariato. Nel mese di settembre esplose il caso, 4 bambini morti e più di 50.000 persone colpite da malori vari. Un pool di scienziati cinesi in questa settimana ha presentato i risultati delle inchieste e non si può dire che vi siano stati tentativi di aggirare e sminuire la portata della frode. Anzi, i responsabili dell'indagine hanno chiaramente sottolineato come la tecnica usata per alterare il latte sia stata sofisticata e quindi messa in atto da fonti in possesso di considerevole know-how. La sostanza utilizzata è stata la melamina, un composto chimico industriale che si trova in ben altre applicazioni come la stabilizzazione di materiali plastici o addirittura nei prodotti ritardanti del fuoco. Di solito nelle sofisticazioni si usano procedimenti molto più semplici, hanno commentato gli scienziati cinesi. L'uso della melamina invece suggerisce, come vi dicevo, l'intervento di una consulenza tecnica decisamente più sofisticata, in grado di superare i soliti controlli di qualità. La melamina fa risultare negli esami un contenuto di grassi che in realtà non esiste. Sono state arrestate circa 30 persone, 20 le aziende implicate nella vicenda, anche la più grossa azienda cinese che produce latte in polvere, però ai tecnici non sono ancora arrivati. Mebius di questa settimana finisce qui con questa notizia. Appuntamento alla prossima. Buona serata a tutti e a tutte.